solo 10 minuti, anzi un po' meno se è possibile. Per restare in un... per adottare anch'io un topos di questa nostra riunione, presento una sceneggiatura senza personaggi. L'argomento, i musei e le raccolte di storia naturale, gli orti botanici come istituzioni alternative e complementari rispetto alla cultura delle università e delle accademie, direi che come soggetto è già motivato nel titolo, quindi potremmo chiudere. Quello che cercherò di dire è un po' il tentativo di trasformare quello che era semplicemente il desiderio di fare un intervento e un mio vecchio pallino in un discorso più ampio, quasi una relazione. L'argomento grosso modo presenta questa cronologia in generale. Un'attività, diciamo, esclusivamente filologica, parlo della ripresa di queste forme di cultura, quindi dal 400 grosso modo fino alle grandi sistemazioni settecentesche. Un'attività quasi esclusivamente filologica che occupa grosso modo un secolo fra la metà del 400 e la prima metà del 500. L'esplosione dell'attività filologica e dell'attività, come dire, di esame naturalistico. C'è un anno fatidico, ricerca degli anni fatidici è una mia passione, che è il 1555, in cui escono opere di Gessner, di Dioscoride del Matioli, opere di Rondelet, opere di Bellon e poi credo anche di qualcun altro che non sono stato ad annotare qui. Quindi da questo momento in poi non c'è più la pura e semplice attività filologica che si esercita sui testi, ma siamo di fronte al ricorso anche alla natura. Sono in sostanza delle opere nuove. Il secondo momento è quello che, dopo questa esplosione, arriva fino al 600. È anche il momento in cui si realizzano i musei naturalistici, che sono un po' il cuore di tutta questa tematica. E io ne ricordo soltanto un 4 o 5. Quello del Calzolari a Verona, quello dell'Imperato a Napoli, dell'Aldrovandi ovviamente a Bologna, del Mercati Michele a Roma e di Manfredo Settala a Milano. Di tutti questi musei esistono le descrizioni dirette, specie di cataloghi, oppure sono la base di trattazioni addirittura molto più ampie, come quelle dell'Aldrovandi, tanto per non far nomi. Purtroppo il materiale nella maggior parte dei casi è praticamente scomparso, quindi dobbiamo accontentarci noi della testimonianza scritta. Torniamo all'epoca filologica. Nel Settecento, dicevo in poi, c'è la sistemazione definitiva. Questa sistemazione definitiva, che è stata preparata da un'acquisizione di conoscenze lunghissima, riprende addirittura, quando siamo di fronte ad opere di particolare completezza come la Metalloteca Vaticana del Mercati, riprende addirittura le antiche opere. La Metalloteca Vaticana del Mercati è del 1570-80 la stesura manoscritta ed è edita dall'Ancisi a Roma nel 1717-1719. Cioè, si riprende l'archetipo del collezionismo, per così dire, e lo si riproduce stante l'interesse che ha ancora in quel momento per la completezza della documentazione che offriva. Un'altra ragione per cui pare opportuno presentare e stimolare la ricerca in questa direzione è che la storia naturale ha goduto di una pessima storiografia, anzi addirittura non ce l'ha avuta, insomma, grosso modo. E la storia naturale come disciplina in sé gode di un pessimo studio, come l'astronomia è scomparsa praticamente dall'insegnamento delle scuole, almeno italiane, non so quelle tedesche, ma ormai sono cose che non si studiano più. In sede di discussione di tesi si sente dire il polipo è un pesce, insomma. Cose che io riesco ancora a essere sconvolto. In realtà questa materia, la storia naturale, presenta storicamente una realtà ben diversa. C'è un'abbondanza di documentazione che è solo in parte nota. Gli epistolari sono numerosissimi, parzialmente pubblicati o addirittura non pubblicati, e direi che in moltissimi casi basta appassionarsi a questi argomenti, che in molti casi sono di un'ampiezza tale da destare veramente preoccupazione. Si scherzava prima su Aldrovandi, Kircher, il museo kircheriano, se vogliamo aggiungerlo a quella lista che ho fatto prima, e basta appassionarsi a questi argomenti per trovare, per ritrovare una vocazione alla quale si può dedicare, credo, una vita. Qui abbiamo davanti un esempio, professoressa Tongiorgi, che lavora e impiega il suo tempo in quello, però non è soltanto per lei, è la possibilità di far rivivere l'orto botanico pisano, che fino a ieri esisteva soltanto per quelle stupide diatribe sul fatto che fosse prima quello di Padova o quello di Pisa, poi la questione era di un anno, quindi problemi di questo genere. Questo materiale, queste istituzioni sono comprese sistematicamente nei viaggi di istruzione. Io ho qui per combinazione, perché ce l'avevo sul tavolo, il Paolo Boccone Osservazioni Naturali, Bologna 1684, che è un naturalista che pubblica una lettera, per tornare ai discorsi fatti nei giorni scorsi, indirizzata all'illustrissimo signor Charles Howard di Norfolk d'Arquin, nobile inglese, dove dopo una parziale informazione su pubblicazioni di un qualche interesse seguono 11 pagine, dico 11 pagine, di indicazioni di musei privati in Italia da visitare in previsione di un viaggio che il signor d'Arquin avrebbe dovuto fare nel nostro paese. Altra fotocopia che ci avevo lì per combinazione ancora è il Filippo Bonanni, Ricreazione dell'occhio e della mente nell'osservazione delle chiocciole, Roma 1681, poi ripubblicata nel Museo Kircheriano. Bonanni è uno degli addetti al gabinetto delle curiosità lasciato da Alfonso Donini e poi arricchito da tutto il materiale del Kircher presso il Collegio Romano, dove addirittura in un capitolo che è intitolato «Si riferiscono alcuni musei nel quali si conservano le chiocciole», ci sono 32 collezioni ricordate di gasteropodi. Quindi direi è una presenza massiccia di interesse naturalistico che difficilmente si può dimenticare quando effettivamente vogliamo capire cosa succede nella scienza di questo periodo. È una scienza che si costruisce in un modo diverso dall'astronomia e dalla meccanica, però partecipa di tutta una serie di elementi che configurano la grande trasformazione scientifica del 5-600, che secondo me, così lo dico una volta per tutte, non sta nella rivoluzione copernicana, ma sta nell'aver capito che la natura, per essere veramente conosciuta, deve essere studiata in tutte le sue manifestazioni normali. Soltanto quando arriviamo a capire che il libro della natura, eccetera, eccetera, va letto tutto e non per riassunti o per errori di stampa, come si è fatto per tantissimo tempo, ma non si arriva a cogliere perfettamente che la natura è un tutto organico ordinato che ha leggi e che le leggi rappresentano la norma e sono quelle che devono costituire l'oggetto di indagine, noi non riusciremo mai a capire che cosa succede nella scienza non soltanto italiana ma europea del 5-600. Tutta la storia naturale di questi periodi, in campo botanico, in campo zoologico, in campo mineralogico, è la manifestazione più chiara e precisa che soltanto attraverso questa via si arriva effettivamente a rinnovare il metodo e i contenuti delle scienze e si ottiene effettivamente una sana e soda conoscenza naturale. In campo astronomico, per fare una parentesi delle cose nelle quali posso pasticciare meglio, si ottiene lo stesso risultato attraverso l'opera di Tycho Brahe. Tycho Brahe non è importante solo perché ha fatto un sistema di transizione che poi in tutta l'opera di Tycho occupa un paio di pagine, ed è la nostra ignoranza, la confusione della storiografia con la storia, eccetera, a portarci a vedere l'importanza in quello, perché non facciamo la storia della scienza ma la storia delle teorie scientifiche, che sono una cosa completamente diversa. Tycho Brahe è quello che rappresenta questa posizione in campo astronomico. Aver capito che non si devono osservare le congiunzioni, non si devono osservare soltanto le congiunzioni, le eclissi e cose di questo genere, ma che deve essere fatta un'osservazione continua, con registrazioni meticolose, il più possibile esatte, che poi porteranno Keplero alla formulazione delle leggi, intendiamoci. Tycho Brahe muore nel 601, lascia questo enorme materiale che è il fondamento dell'astronomia nuova di Keplero. Quindi in questo senso tutto questo lavorio è precisamente determinato da questa nuova concezione che si sta facendo strada, che non ci sono le meraviglie, che non ci sono le cose di cui ci si deve stupire, ma che c'è una regolarità naturale che va raccolta e capita. Nello schema che io adesso cercherò di seguire, dopo aver fatto questa specie di perorazione, cercherò di mettere in ordine in questi fogliacci che sono il risultato di speculazioni notturne, quindi come sempre buie, si cominciava col dire che sono alternativi e complementari rispetto alla cultura accademica, cioè le università e le accademie. È ovvio che fino a quando noi non otteniamo l'inserimento preciso della storia naturale all'interno dell'insegnamento accademico, ciò che si fa negli orti botanici e ciò che fanno i collezionisti è un qualche cosa che riesce a surrogare e tante volte a completare, restando autonomo il settore pubblico e il settore privato, quanto avviene in generale nell'attività di questo periodo. I musei hanno rapporti molteplici che vanno dalle accademie, basta poi vedere il destino del Museo dell'Aldrovandi, oppure anche con istituzioni contemporanee. Il museo di Ferrante Imperato a Napoli è frequentato da un linceo, Fabio Colonna, dove compie quelle osservazioni importantissime sulle glossopetre che costituiscono l'inizio della paleontologia scientifica. Anche se mai nessuno l'ha vista e queste cose non sono mai state dette, in realtà ci sono addirittura dei tentativi di dimostrare sperimentalmente, provando la carbonizzazione dei reperti, di che cosa si tratta. E oltretutto, adottando proprio come rasoio di Occam, decisivo in questo caso, il fatto che la natura non fa nulla in vano, non fa i denti per divertirsi, fa i denti per masticare. Se ci sono denti per masticare, ci deve essere l'animale che masticava. Per cui le glossopetre melitenses vanno cercate per essere ritrovate e collocate nell'animale, dopo aver dimostrato attraverso la carbonizzazione e altre poche cose che ha potuto fare, che sono dei reperti di natura organica e non dei reperti di natura mineraria. Questo avviene in un museo che è frequentato anche dal Della Porta, e il Colonna è il mediatore dell'Accademia dei Lincei per riuscire ad arraffare la biblioteca della Porta. Non gliene importava più nulla. Quello che importava era mettere le mani sulla biblioteca. Dietro il museo c'è sempre anche la biblioteca. Sono sedi di ricerca, dicevo, su due piani che vanno dalla descrizione e identificazione dei singoli materiali e della tassonomia secondo ordini e sottordini dei medesimi. Che vuol dire questo? Vuol dire che capita questa idea generale dell'ordinamento, che io vedrei come forse idea migliore o diversa formulazione di quella che fin qui abbiamo chiamato enciclopedia. L'enciclopedia è un affare che va per ordine alfabetico, insomma, ecco. L'ordine alfabetico è obiettivo, ma non dice nulla. Può essere divertente, il quondam si diverte a sfogliare le cose in ordine alfabetico. L'ho detto lui. Direi che l'enciclopedismo, quando arriva ad avere un'estensione estremamente ampia, finisce con l'essere qualcosa di molto poco organico. Ora, per me, a me sembra che quello che abbiamo chiamato enciclopedismo di questo periodo sia in realtà la volontà di arrivare nelle grammatiche normative, nel diritto, nelle leggi, in tutti i campi possibili a istituire un ordine, una serie di collegamenti. per cui non solo natura non facit saltus, ma tutto il resto non fa salti e tutto procede attraverso collegamenti organici strutturabili in un tutto di cui bisogna cercare la chiave. Questa diffusione di conoscenze che si ottengono in tal modo è proprio non soltanto questa azione di rinnovamento, ma è anche la capacità di descrivere, la capacità di conoscere. Si recupera in tal modo un aspetto degli erbari, dei lapidari, dei bestiari medievali, che è l'aspetto, come dire, di conoscenza, che può essere una conoscenza fabulosa, tutto quello che si vuole, ma che comporta anche una determinata esigenza conoscitiva. Cambia però la prospettiva. Di solito l'erbario, il lapidario, è un qualche cosa che è organizzato, almeno all'inizio, in funzione dell'uso medico. Qui la funzione ordinatrice di tutto il materiale botanico, zoologico e mineralogico è la conoscenza della natura. Per cui, seppure gli orti botanici si chiamavano orti dei semplici, che sono quegli elementi botanici e non solo botanici, che si impiegano in medicina, più giustamente sarebbe chiamarli orti botanici, perché molto rapidamente si comincia a collezionare tutto un materiale che non ha nessun aggancio con quella che è l'utilizzazione di carattere medico. È chiaro che è cambiata anche la medicina in questo periodo. La prospettiva astrologica che dominava tanta medicina e che collegava così strettamente tutta la materia farmacologica, quel grande affresco affascinante che era il rapporto fra macrocosmo e microcosmo, l'uomo dei pianeti, l'uomo dei segni dello zodiaco, sono elementi che in questo momento stanno scomparendo. La fine dell'astrologia non è decretata né da Galileo né da Copernico, è decretata semplicemente dal fatto che i medici non fanno più l'oroscopo prima di curare la gente, ma fondano la loro conoscenza sulla fisiologia, sull'anatomia e sulla terapia che deriva attraverso l'uso dei semplici, bisognerebbe riprendere anche tutto il discorso su Paracelso, eccetera, che deriva in qualche modo da questo nuovo tipo di conoscenze. Per cui cominciano a scomparire le ricette molto strane, molto astratte, riescono a trovare delle motivazioni di carattere e di ordine diverso. Hanno anche intenti utilitaristici, chiari. I primi orti dei semplici, il famoso del monastero di Reichenau, era un orto che serviva a fare le medicine per i frati adoperavano per curare la gente. Resta ancora quest'uso, ma lo stesso insegnamento dei semplici, l'ostensione dei semplici, che è una cosa molto bella anche su cui si potrebbe ricamare molto a lungo, il farli vedere, non più soltanto il parlarne, il presentare effettivamente questo materiale in forma concreta, che è l'altra esigenza che porta alle raccolte. Non ci si fida più del libro, anche se arriva la stampa, non basta più il libro. E ricordiamoci che l'iconografia della stampa è enormemente migliore, enormemente più efficace di quella del manoscritto. Una silografia fatta bene basta per 1000 copie. Il disegno doveva essere fatto volta a volta e se non si aveva sotto mano il miniatore della corte bizantina del Dioscoride di Vienna e di quello di Napoli, ovviamente il disegno era pessimo e non era interpretabile. Questi intenti utilitaristici in qualche modo rimangono e costituiscono una parte normale, diffusissima, di tutte le trattazioni. Qualsiasi volume di Aldrovandi, Rondelet, Gessner, Bellon, tutti quelli che volete. Prima i nomi, la descrizione dell'animale, della pianta, del minerale, l'utilizzazione e infine la parte che possiamo chiamare filologia, che è spesso preponderante. Insomma, la voce cavallo dell'Aldrovandi c'ha 4 pagine naturalistiche e credo svariate decine di richiami su tutta quella che è la tradizione, dove tutte le volte che è stato nominato il cavallo, a partire da Esiodo, Plinio, eccetera, eccetera. E si va avanti in questo modo. Queste conoscenze che non sono più soltanto tramandate, vivono attraverso uno scambio di informazioni e di descrizioni. La rete di questa conoscenza normalizzata della natura si tende ad estenderla su tutta la superficie terrestre, conosciuta ovviamente. Questo desiderio di completare con l'informazione più ampia possibile è una delle molle di questi tipi di conoscenze ed è anche una delle ragioni più profonde di discussione, perché, come sappiamo, tutti gli animali, tutte le piante, tutti i minerali hanno una loro zona, cambiano denominazione, non si trovano, e tutto questo crea quegli epistolari voluminosissimi dove tante volte, risalendo dalla primitiva descrizione di solito di Oscoride, Mattioli 1554 lo rimette in circolazione con quegli enormi commenti, e tante volte cos'era successo soprattutto nella tradizione medievale, che spostandosi l'ambito di preparazione del ricettario dal mondo greco al mondo orientale, penso gli arabi ovviamente, al mondo europeo, quando si cominciano a rifare le traduzioni in latino, si trova che molte cose non esistono. Allora si cerca di rimediare sostituendo con prodotti locali supposti di pari efficacia l'antico prodotto che era descritto nel testo originario, e spesso il nuovo prodotto assume il nome dell'antico, aumentando la confusione. Da aggiungere che proprio per questa esigenza di precisione, di esattezza, che è una bellissima cosa, però non facciamo un feticcio della precisione e dell'esattezza che sono sempre presenti. Galileo non misura niente, però cambia il mondo. Buon Riccioli, che misura tanto, è rimasto lì, insomma, occupando un gran posto negli scaffali con tutti i suoi numeri. Questo desiderio, dicevo, di precisione e di identificazione porta a scambiare non soltanto le informazioni scritte, ma anche gli oggetti. Il traffico dei semi, le cassettine che circolano per l'Europa lungo il 500, 600 e anche oltre, era una cosa che poteva verificarsi solo allora con quei corrieri che funzionavano molto meglio dei servizi postali di oggi. La stampa incide perché fornisce un'informazione molto più accurata, più precisa. La presenza di queste illustrazioni è l'elemento essenziale che distingue il discorso naturalistico di questo momento. Sono anche, tra l'altro, per caratterizzare ancora meglio queste istituzioni, le prime che proprio per questa esigenza di riscontro diretto sulle cose hanno una loro dotazione di carattere materiale. Quelli che avevano i libri e qualche altra cosa sono stati i medici e poco, direi, gli astronomi. L'astronomia ha avuto tutto sommato una strumentazione effettiva, direi. Molti strumenti erano dei simboli di potere, dei simboli di una condizione sociale, non erano degli strumenti utili e utilizzati normalmente dall'astronomo. È un sapere che non si crea quindi soltanto in libris, ma che va assumendo dimensioni più concrete attraverso queste collezioni, che si sfogliano come si sfoglia la biblioteca. Grazie a Dio qualcuno di questi erbari antichi ci rimane ancora. Come perveniamo a questo risultato? Io qui ho anticipato un po' una parte, per cui seguire il mio schema e forse ripeto qualcosa che ho già detto, mentre non lo dovrei fare. Il risultato è, nell'ambito generale di tutto quell'interesse rinnovato per l'antichità di cui abbiamo sempre sentito parlare, ma che fino a ieri, guardando male, si vedeva solo su certi libri, Esiodi, Omeri e via di questo passo, che si dedica anche ad altre cose. Il passaggio, cui ho già accennato, delle varie versioni della stessa tradizione testuale per l'identificazione dei nomi è un problema di natura non indifferente. E naturalmente la necessità di riscontrare le caratteristiche e le descrizioni sull'oggetto concreto diventa preminente su quelle che sono le pure e semplici discussioni. E il risultato di questa critica filologica, che certamente si è occupata dei testi letterari, ma anche di questi testi scientifici, e che a mio giudizio è altrettanto importante dei risultati scientifici che si vorrebbero ottenuti in forma asettica, mentre non lo sono mai, che si esercita sul testo in sede storica, allora si discute su cosa vuol dire e su cosa non vuol dire, ma anche si fa il confronto sulle cose. Naturalmente la prima fase filologica pura è quella del Plinio tradotto e pubblicato e delle Castigazioni Spliniane che sono, di Barbaro, che sono sostanzialmente una discussione di carattere filologico. Dopo si arriverà ad altro, si arriverà a pretendere che il filologo, per cui la filologia secondo me non è quella che fa gli apparati critici nei libri mettendo le congetture eccetera eccetera come si definisce di solito, ma è la capacità che matura in questo periodo di comprendere realmente un testo per sapere che cosa vuol dire, allora si arriva a specificare diversamente, ci ho messo il segno ma non so se lo trovo, eccolo qui, qual è il vero procedere. Il riferimento, vulgate, eccetera, eccetera, et ne frequens locorum obscuritas, me in errorem duceret, ubi vel minimus scrupulus, quod interdum accidit, nobis iniectus est, statim, imaginem, cum archetipo nature, nempe iconem cum dissecto cadaveris membro contulimus et comparaimus. Il discorso non è più soltanto sulla ricostruzione filologica, lasciato alla congettura e alla perspicacia del curatore o alla tradizione testuale. Il testo su cui confrontare veramente il contenuto scientifico è l'archetipum nature, è il riferimento preciso all'oggetto naturale. È il discorso che si trova anche negli autori matematici, dove si dice, Commandino è specialista in queste cose, dove si dice la tradizione testuale mi dà questo, è sbagliato, il rigore matematico mi garantisce che Euclide, non essendo un imbecille, qui deve aver detto questo, questo e quest'altro, e non ci sono dubbi. Ed è un grosso problema che viene sollevato ancora e discusso nell'ambito della filologia ottocentesca. Heidelberg eccetera, si pongono problemi di questo genere, come se li pone, per stare in casa nostra, il Favaro con Isidoro del Lungo e con il Bianchi quando deve pubblicare l'edizione nazionale delle opere di Galileo, dove ci sono 10.000 lettere della Domus Galileana che mai nessuno guarda. Dunque, il problema, l'altro problema che vorrei sollevare, ripeto, doveva essere così un intervento, poi è stato organizzato in questo modo e quindi io sto perdendo il filo spesso, ma lo perdo anche quando è normale, insomma, sono non... dicevo, su questo punto vorrei fare una precisazione, ed è la valutazione, tornando al problema di prima, della filologia umanistica. La filologia umanistica non divulga, la filologia umanistica traduce e innova. Qualsiasi traduzione è una innovazione, perché non si riesce a trasferire mai asetticamente, con perfetta rispondenza di carattere matematico, da una lingua all'altra, ma qualsiasi traduzione è un'opera di interpretazione e si interpreta in base a quello che si sa in quel momento e di aggiornamento. Si aggiunga che l'opera dei filologi umanisti non è soltanto la traduzione, ma è anche il commento. Dopodiché il quadro è completo. Procediamo oltre. Tutto quello che incide su questa strana situazione è dovuto all'ampliarsi delle conoscenze geografiche. Ovviamente il Nuovo Mondo, qui bellissimo volume del tesoro messicano dei Lincei, esposto mostra dell'orto botanico, la prima volta in cui si ha occasione di vederlo, no? Io ce l'ho lì in istituto, ma cioè di farlo vedere agli altri, è una delle grandi cose, dove non c'è l'esigenza soltanto di sfruttare utilitaristicamente le piante, ma c'è l'esigenza di farle conoscerle, di descriverle. E di descriverle adducendo il testimonio dell'iconografia che è esemplata e dipinta rispetto all'originale. E allora c'è tutta questa partecipazione dell'arte, dell'artista. Sì, scusa. Sono cose che io ho imparato da lei, adesso mi vergogno profondamente così a dirle, sfruttando gli amici, ma e c'è questa partecipazione che non fa soltanto delle belle composizioni esteticamente apprezzabili, eccetera, ma fa delle raffigurazioni così scientificamente precise, esatte, che oggi non è difficile arrivare all'individuazione delle piante rappresentate. Il naturalista è anche un esploratore, dei nomi che dicevo prima, Bellon compie tutta una serie di viaggi in Oriente, addirittura ricordiamoci c'è una carta del Monte Athos, una carta del Sinai, eccetera, quindi l'interesse geografico che si aggiunge all'interesse naturalistico per individuare l'habitat. Io non so quanto di questo discorso potrebbe anche essere spostato nella direzione dell'antropologia del selvaggio, eccetera, in modo da ridimensionare certi miti e portarli su di un binario un po' più umanamente accettabili. Attualmente tutta questa roba nuova introduce delle profonde alterazioni negli schemi. L'elemento di riferimento è ancora Aristotele, è ancora Dioscoride, però si vede che c'è qualche cosa che non torna più, che i vecchi schemi non possono più essere seguiti, e si comincia ad avviare un'azione critica di nuova classificazione. Le classificazioni non sono degli esercizi banali, ma le sistemazioni classificatorie che dimostrano, per esempio, sincronicamente il natura non facit saltus, sono, secondo me, ipotesi soggetta a discussione in beneficio di inventario per tutti, sono anche l'avvio a quelle che saranno poi le teorie evoluzionistiche. Quando l'ordinamento risponde in un certo modo in senso sincronico, c'è la possibilità di individuare la stessa rispondenza, il non facit saltus, che rimane come uno dei canoni fissi di questa visione naturalistica, nel diacronico. D'altronde proprio il nostro moderatore ci leggeva il suggerimento del Cesi di andare a vedere il mondo. Quindi non accontentatevi, non leggete più le favole, accertate in loco come stiano effettivamente la cosa, portando a casa i pezzi, la documentazione di quello che avete intenzione di dire. La stampa, io credo di aver continuato a insistere da quando sono qui su questo fatto che produce nuova cultura e ne cambia le strutture, per ragioni economiche e tutto, sono cose che le sappiamo. In campo naturalistico si può scrivere, credo, la storia di una gran parte delle scienze naturali guardando le illustrazioni, leggendo anche il testo, ma soprattutto guardando le illustrazioni, cercando di capire, cercando di vedere. Tutto questo complesso conclude alla tipica sistemazione di quel mondo naturalistico che va prendendo sempre più forma, perché va sempre più arricchendosi, e va arricchendosi di documenti precisi in nome della ricerca della normalità. Allora scompaiono le collezioni dalle collezioni naturalistiche, non scompaiono, non hanno più peso i ludi nature e i mostri. Si sa benissimo che i basilischi sono falsi, non è che siano proprio dei... Ecco, il Aldrovandi presenta le sue brave figure di basilisco, scrivendo addirittura questo è il basilisco fatto utilizzando la razza e sagomandola in modo particolare. Verum animadvertendum est, quod impostores sepe sepius ex parvis rais exiccatis feram et finum. Et pro cadavere basilisi circumferunt, nec non principibus tamquam insigne munus offerunt. Nec omittendi sun dracones, quos circumforani exais exiccatis pro arbitrio fingunt, ut illo signaro ostentantes vulgo facile rerum naturalium imperitus decipiant. E ancora questo, si può dire, lo stesso Calzolari fa questa descrizione del basilisco che è bellissima, perché ne dà tutta l'interpretazione medievale. C'ha la corona perché è un simbolo regale, è di colore fosco perché è un simbolo anche del male, via di questo passo. E poi alla fine dice: sias namque ne quid mendaci hoc nostro in nomenclatore reperiatur, basiliscum non esse dracone, sed esse piscem, Maris alumnum, anche lui pensava che la razza fosse un bene, vabbè. Raiam nimirum levem, in ac forman manu artifici fabre factam. Quindi a questo punto qui, cioè è un gioco a cui si sta, è una cosa da far vedere che si può tenere lì per far divertire magari il Signore, però sanno benissimo che sono falsi. Il pezzo eccezionale quindi non è più una curiosità, di fronte alla quale, dice vulgo, solo il gonzo si stupisce, ma è un, quando sia effettivamente un pezzo eccezionale e vero, diventa una rarità che è soggetta di particolare attenzione e sempre però di un apprezzamento critico. Quindi tutte queste raccolte che cercano di essere complete, a un certo punto automaticamente escludono da sé quello che è anormale, quello che è fittizio. Soltanto quando noi abbiamo degli spezzoni di conoscenze possiamo colmare la lacuna con delle fantasie. Quando noi cerchiamo di avere un discorso quanto più possibile completo, è difficile inserire fra due cose vere una cosa falsa e farla accettare per vera. Anche questo desiderio di completezza è l'unica garanzia effettiva ed efficace funzionante che non siamo di fronte a dei falsi, oppure bisogna essere molto bravi per costruirli, e se ne fanno anche recentemente in paleontologia, è una procedura che ogni tanto viene seguita. A questo punto io direi che allora il discorso che spesso si fa di questo riferimento alle Camere della Meraviglia, eccetera, è un discorso che può essere sviante. Certo, è un collezionismo, è una forma di collezionismo, però ricordiamoci che quando viene pubblicato il catalogo del Museo Settala di Milano, il medico Manfredi, Paoli Marie Terzaghi, medico eccetera eccetera eccetera eccetera, divide il materiale del Museo Settala in naturalia, ed è il museo naturalistico, botanico, zoologico, mineralogico. Artificiaglia, cioè le opere dell'artifex, quindi le opere dell'ingegno, gli strumenti scientifici e via di questo passo. E poi curiosa, che oltretutto non sono curiosità nel vecchio senso tradizionale, ma sono del di solito, almeno nella maggior parte dei casi, per quello che ho presente io, ma non mi ero preoccupato di accertarlo perché non pensavo di annoiarvi tanto, non sono degli oggetti di fantasia, ma sono magari degli oggetti che potrebbero interessare l'antropologia. E il cappellino con le penne che viene dall'America, e la scarpa di Foggiastrana e via di questo passo. Quindi siamo in un ambito dove proprio la, come dire, la buona fede, che era spesso animata dal desiderio di sapere, che per tanto tempo ha retto la cultura naturalistica, parte anche in età classica, poi parte anche in epoca medievale, e comincia a fare le sue crepe, e più nessuno è deciso o è disposto ad accettarla per tale. Grazie. Durch die Frage im Sinne auch von Herrn Kraft. Sie nannten die Museen Verona, Neapel, Bologna, Roma, Milano. Ende alle Ende des 16. Jahrhunderts. Aber das Buch wird später herausgegeben. I cataloghi sono io non pensavo di fare un discorso così ampio, non ho portato la bibliografia, però per esempio l'edizione del Museo Calzolari è del 1593, l'edizione di quello del Settale del Settale è 1664, l'edizione latina è 1666, l'edizione italiana, che oltretutto è stampata a Tortona, quindi è la fine del 500. Sì, il museo primo inizio del 600. Sì, ma ce n'è tante. Il catalogo del Donini, quello dell'imperato, il catalogo del Donini prima del Kircher, tutto il resto, cioè, ce n'è un pochino. Allora, professoressa Don Giorgi. Con una precisazione sul problema dei musei che mi è stata suggerita appunto dalla Bozzoli con cui avevamo visto questo testo, cioè la divisione tra artificiaria curiosa e naturalia, viene da un tedesco, da uno studioso del mondo tedesco, cioè da Samuel von Quickenberg, che scrive questo Museum Theatrum alla metà del Cinquecento. E è, appunto, e poi si sparge poi per capirlo. Volevo fare alcune osservazioni, se vi è permesso, su che mi sono state suggerite non solo dalla ampia relazione di Maccagni, ma anche da un saggio che io ho trovato molto importante, il professor Raimondi, cioè verso il realismo. Cioè, mi preme di sottolineare con la necessità di perseguire due linee di indagine che emergono da questo così ricco materiale naturalistico e che varrebbe la pena di perseguire con un maggiore impegno. Già in gran parte l'amico Olmi ha fatto delle cose molto belle in questo senso. E vorrei sottolineare in modo particolare due aspetti. Il primo è l'aspetto linguistico. Cioè, sarebbe molto importante vedere, studiare attentamente come epistolari, già citati più volte in queste nostre sedute, le relazioni di viaggi, le relazioni per le erborizzazioni e la raccolta dei minerali vengano stilate. Cioè, un altro aspetto è il problema della descrizione di questi reperti, perché naturalmente accanto al modo con cui sono stati trovati certi oggetti c'è la descrizione di questi reperti. E, primo fra tutti, il problema della nomenclatura. Cioè, evidentemente, Carlo, lo so, ma purtroppo bisogna affrontarlo prima o poi questo problema. Dunque, il discorso che... Porta anche male, Sì, porterà male, ma è comunque... Ma allora non parliamone. No, no, porta male occuparsene. Per ragioni accademiche. Il problema è evidentemente del fatto come già, fino ad arrivare alla nomenclatura, ad esempio, linneiana, già come si ponga il problema della duplice nomenclatura. Perché, per esempio, in questo ricco materiale iconografico che ho trovato, insomma, esiste per i reperti botanici, esiste già sulla fine del Cinquecento la doppia nomenclatura. Ed esistono anche dibattiti inediti di come nominare gli oggetti, le essenze botaniche o gli oggetti o gli animali, cosa abbastanza facile per quelli che hanno antica tradizione, ma per i nuovi, quelli di reperti che vengono dal nuovo mondo, evidentemente pongono dei problemi veramente notevoli che varrebbe la pena di affrontare. L'altro aspetto che mi compete un po' di più in quanto storica dell'arte è quello delle immagini. Cioè, abbiamo già più volte sottolineato come l'importanza del visto. Molto spesso l'abbiamo visto però questo aspetto del vedere, l'abbiamo visto un po' subspecie teatrale. Ecco, a me interessa invece in un altro senso, cioè il problema delle immagini, come debba essere riprodotta, quindi questa necessità di mimesis, se volete una nuova mimesis che ha tutte delle regole precise, cioè la necessità di riprodurre ad vivum, quindi il problema del colore e come il problema, dico, all'interno di una ricchissima trattatistica sul colore coeva si inserisca anche il discorso del colore riferito ai reperti naturalistici. Già Olmi ha pubblicato e riprodotto, ha portato all'attenzione i rapporti, i dibattiti, i rapporti tra quanto ha scritto lo stesso Aldobrandi e i Paleotti. Ma esiste nel manoscritto aldobrandiano, io non so quante pagine ce lo fate fotocopiare, ma certo più di 200, di un trattato specifico sul colore che ancora è ignoto. Evidentemente questo evidentemente va studiato anche perché certi studi storici dell'arte, di storia dell'arte, possono assumere delle prospettive. Dopo c'è anche Milano Terzi che continua a trattare del colore. E evidentemente un giro del bolognese interessante. Un altro aspetto che secondo me appunto va focalizzato è il problema di come si passi dall'immagine, dall'immagine unica all'immagine riprodotta, quindi la xilografia, ma la xilografia deve essere colorata e poi fino alla incisione, e il caso del Colonna è emblematico, dico, oltretutto si possono ritrovare anche i disegni originali del Colonna che peraltro esistono e vedere come poi si passi alla fase incisoria. Tutto questo pone anche una serie di problemi sulla figura sociale del pittore, evidentemente questo aggiunge nuove caratterizzazioni alla figura sociale del pittore. Mi piace ricordare una cosa che peraltro è nota, cioè come il Fuchs dell'Historia Stirpium rappresenti i suoi collaboratori pittori vestiti in abiti dottorali. Quindi questo vuol dire che questa gente non sono degli esecutori materiali, ma sono evidentemente dei collaboratori. Quindi ecco, questo a me interessa, dico, indicare questi nuovi campi di indagine, un invito a un'interdisciplinarietà che secondo me è l'unica che può servire per rompere il settorialismo che fino ad ora ha caratterizzato questo tipo di studi e fare veramente un salto di qualità in questo senso. Vasoli. No, io volevo soltanto presentare Zwei Aspekte. Der eine war der, dass man diese Objekte, die hier nun gefunden werden, auch darstellt, davon Bilder anfertigt. Und zwar Bilder anfertigt, die sich möglichst genau mit der Realität decken. Das gilt also nicht nur für die äußere Erscheinung, sondern es gilt offenbar auch für die Farben. Und es wurde dann etwa für Kräuter, die nun wieder dargestellt werden, in allen möglichen und möglichst genau Farbe, Reproduktion, Abwiegung versucht. Die Dame hat versucht, nun diese Entwicklung im Bereich der Naturwissenschaft auch in eine Beziehung zu setzen zur Entwicklung im Bereich der Kunstgeschichte, wo ja auch dies eine Zeit ist, in der sich die Perspektive auf wissenschaftlicher Grundlage allmählich in den Bildern durchsetzt. Zweitens, soweit ich es verstanden habe, ging die Frage, die zweite Frage, ging nach dem äußeren Stil der Briefe und der Beschreibungen, die sich hier nun mit Mineralien, mit naturwissenschaftlichen Objekten oder auch mit Reisen, Stichwort neue geografische Erkenntnisse, befassen. Und es wurde nach der Nomenklatur gefragt, wobei hier offenbar eine doppelte Nomenklatur besteht, eine Begriffsverwirrung, die auf der einen Seite rekurriert auf die antike Tradition von Begriffen, andererseits eine neue Fachsprache im Entstehen zu beobachten ist, die hier oft im Widerspruch steht, und danach ging die zweite Frage. Die Mitarbeit der Maler beginnt zu werden eine wissenschaftliche Arbeit. Pintor Academicus. Ja. Und noch ein drittes hat sie die Traditione Emblematico, also der Embleme, die auch mit hinein, also ein eigener Komplex, der in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lexikographie in den Illustrationen eine Rolle spielt. Ja. Und dann wurde noch genannt, als, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es wurde genannt, der berühmte Botaniker Leonhard Fuchs, der ja auch an der Universität Ingolstadt einige Jahre war und eine große Rolle spielt, übrigens in der Vermittlung zwischen Botanik und auf der anderen Seite eben auch Philologie. Und Bernale ist für ihn ein Doktor. Schon. So halt. Für Fuchs. Ja. Professor Vasoli. Sì, volevo semplicemente presentare una cosa sulla questione dell'enciclopedismo. L'enciclopedismo del 500 non è affatto alfabetico. Cioè, dico, è un'enciclopedia nel senso del rispetto della parola. Bisogna ben distinguere, secondo me, proprio il passaggio dall'enciclopedia, che è un corpo dottrinale, una struttura completa, totale, enciclopedia di altri del tempo tipico, l'enciclopedia poi la propria enciclopedia, il progetto enciclopedico di Caramba e Lopkowitz, il progetto di enciclopedia grossa enciclopedia di Leone di San Giovanni, cioè tutte queste grosse enciclopedie sono tutte sistematiche, sono tutte una, c'è una grossa, anzi sempre sì, premesse da schemi tassonomici che rappresentano tutto il complesso delle dottrine, sono sistemati sempre per discipline. Ora è proprio direi, io penso che sia proprio la crisi che viene sempre più avanzando nel corso del Seicento, della visione totale del mondo, proprio attraverso la specializzazione delle scienze, la suddivisione, la distinzione, che porta alla fine dell'enciclopedia sistematica, appunto, porta alla nascita del dizionario. Dico, l'enciclopedia si chiama a caso dizionario, è un dizionario. Cioè è finita la possibilità di dare un quadro totale. C'è e allora si Dalmer ricorda ancora, però l'enciclopedia di fatto è organizzata per ordine alfabetico, perché i quadri di riferimento tradizionali non ci sono più, non si può più tentare una ricostruzione del sapere, bisogna poi arrivare ma c'è discorso avanti, per dire. Ai tentativi della scienza unificata, bisogna arrivare al fondo ai tentativi di Unified Science e di altri. Professor Kraft. Etwas rausgekommen wie das mit der Regularität der Natur, was das ist. Im 16. Jahrhundert versucht man doch in einer Renaissance des Aristoteles und nicht aufgrund von Naturbeachtung eine Gesetzlichkeit im Sinne aristotelischer, bei ihm ist es noch nicht systematisch, wird aber dann im 16. Jahrhundert zu einem systematischen Prinzip, wie das neue Material nach diesen aristotelischen Prinzipien zu ordnen, wird der Versuch einer davon unabhängigen Gesetzlichkeit, die erst in das Bewusstsein bringt, als man aufgrund der Fülle des Materials mit Aristoteles nicht mehr zurechtkommt. Cesarpino ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass Aristoteles als Ordnungsprinzip genommen wird. Man sucht nach den wesensgemäßen Arten und ihren Unterschieden entsprechend zu den aristotelischen Prinzipien. Die neue Gesetzlichkeit ist dann allerdings die des 18. Jahrhunderts, nämlich die der Scala Naturae, der Seinskette, wo man versucht, die Stufenfolge der Dinge über die naturhistorischen Objekte hinweg von den Mineralien, von den Elementen über die Mineralien und die botanischen, zoologischen bis hin zum Menschen einzuordnen. Das ist die neue Gesetzlichkeit, während die alte eigentlich noch die aristotelische ist. Die Renaissance der Antike hängt hier auch zusammen etwa mit Ausgaben und Kommentaren, das ist wichtig, von Dioskurides etwa, von Aristoteles. Das läuft parallel dazu, das sind sozusagen die humanistischen Bestrebungen zusätzlich zu den, Kenntnissen von Arten, die ganz, ganz neu sind. In dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass das 16. Jahrhundert sich um diese Dinge kümmert, in besonderem Maße, weil hier durch die Entdeckungsreisen etwas von außen hereingebracht wird, was bis dahin unbekannt ist, was aus der Antike nicht belegbar ist. Es entstehen dann gleichzeitig umfangreiche Probleme, das geistig zu verarbeiten. Denken wir an Buteo, der hat eine sehr diffizile Schrift darüber geschrieben, wie die Kapazität der Archenoe sei. Wie können all diese Arten, die jetzt bekannt sind, in der Archenoe Platz gefunden haben? Ist die Schöpfung wirklich vollständig gewesen oder wie Buteo dann vorschlägt, etwa, ich glaube, 1574, dass es nur bestimmte Hauptgruppen sind, jetzt im Sinne der aristotelischen Klassifikation, die zu derselben Zeit aufkommen, die in der Arche nur Platz gehabt haben, während alles andere sozusagen Nachschöpfungen Gottes sind. oder Entwicklung aus diesen Differenzierungen, aus diesen Hauptgruppen. Ein letztes noch, was wir meist etwas überbetonen, die naturalistische Darstellung in den Abbildungen zu den Pflanzen- und Tierwerk des 16. Jahrhunderts. Sie spielen eine sehr wesentliche Rolle. Fuchs ist hier genannt worden. Was wichtig ist, der Grafiker, der Stecher, ist gleichwertig neben Fuchs als Autor des Werkes abgebildet worden. Es kommt also ein neues Bewusstsein. Aber es ist nicht so rein die Realität wiedergeben, sondern es sind noch einige zusätzliche Dinge, die hier reinkommen. Es werden zum Beispiel Defekte der Pflanzen ganz akkurat dargestellt, also nicht die Realität. Es werden gleichzeitig verschiedene Entwicklungsstadien in einer Pflanze zusammengedrückt, wie es nie in der Wirklichkeit vorkommt. Wir bekommen also eine neue Vorstellung von einer Überrealität, die in der naturalistischen Darstellung durchdringt. Allora, la prima domanda verteva e poi si è sciolta sul problema della regolarità. E la regolarità di cui si può parlare fra 5 e 600 non sembra al professor Kraft ancora la vera idea della nuova regolarità, che è da porre piuttosto nel 700, quando si giunge finalmente alla serie, ai diversi livelli, alla catena dei diversi momenti della natura, e finalmente si stabilisce un ordine reciproco. Osserva che la nozione aristotelica non basta da questo punto di vista aggiungere fino a questa possibilità, mentre essa resta ancora largamente all'interno delle operazioni fra 5 e 600. Si deve anche tenere conto delle scoperte geografiche, dell'incremento di notizie, di materiali che pongono un problema, cui però non viene data subito, non può essere data subito una risposta. Il sistema precedente contemplava già ogni cosa, oppure è una nuova creazione, un nuovo sviluppo, e come si stabilisce un rapporto tra queste cose? Ultimo, il problema del pittore o comunque dell'incisore che si colloca vicino allo scienziato vero e proprio, come nel caso di Fuchs, ed è proprio il caso di Fuchs che il professor Kraft ricorda, perché egli osserva che forse non va ancora enfatizzata la situazione della riproduzione esatta, perché nel caso di Fuchs ci troviamo di fronte poi a tavole nelle quali non si rappresenta la realtà ma una iperrealità, tant'è vero che di una pianta si danno tutta una serie di momenti che nella realtà non si danno. Quindi da questo punto di vista l'evoluzione è molto più lenta e esistono diversi modelli, uno esistente e uno in formazione, che si contendono e si trovano in rapporto e in conflitto per un periodo molto più ampio. Bene. C'era Olmi, dann Ziegler und Dickerhoff. Olmi war schon. Siccome la cosa è complicata, cerco di rispondere subito molto rapidamente. La regolarità della natura è, come dicevo, il discrimine fra l'accettazione pacifica di ciò che viene raccontato e di ciò che invece si cerca di documentare per poterlo inserire in un ordine preciso. Prima non esiste ordine. Nei lapidari, negli erbari, nei bestiari non c'è ordine, è un'aggregazione. Certo, la regolarità del 700 è meglio di quella del 5 e del 600, quella dell'800 è meglio di quella del 700, quella del 900, se non la si butta via, è meglio di quella dell'800. Direi che uno dei miei più radicati principi metodologici, quasi teologici, è che bisogna storicizzare i concetti, se no non si capisce più niente. che dobbiamo accertare la presenza di un determinato concetto in un determinato periodo, non facendoci saggi dell'iniquo senno del poi per giudicare il passato, ma semplicemente il passato non ha bisogno di essere giudicato e non ha bisogno di essere spiegato, ha solo bisogno di essere capito. Il passato, i fatti si sono verificati perché potevano verificarsi, se no non sarebbero avvenuti, non hanno bisogno di altre giustificazioni. A questo punto è chiaro che noi siamo di fronte alla possibilità di interpretare o una serie di crisi o una serie di sviluppi, e qui è una preferenza quasi di parole. Certo, Aristotele non basta, difatti Aristotele è in filigrana. Il riferimento è sempre ai trattati naturalistici di Aristotele, perché Aristotele, come sappiamo, nel 500 e nel 600 e forse anche oltre, è ancora uno dei pilastri, e mentre il vecchio corpus aristotelico propone dei discorsi che rappresentano un loro ordine, altri questo non lo sanno fare. Però non c'è l'accettazione pacifica di Aristotele, come non c'è l'accettazione pacifica di Teofrasto, come non c'è l'accettazione pacifica di Dioscoride. Dioscoride racconta la storia del sangue di toro, che se si beve il sangue di toro, invece di avere semplicemente, come avviene in natura, una defecazione nera, si ha il crollo immediato e la morte immediata. Tutta la mitologia greca ricorda questi fatti. Un mucchio di gente si ammazza bevendo il sangue di toro. E Dioscoride dice: questo lo raccontano, forse può essere successo, forse era avvelenato, e via di questo passo. Non si accetta più nulla, lo si indaga con la stessa acribia con cui si interviene sul testo, si interviene su ciò che è espresso dal testo. Aristotele è presente, resta un grosso elemento di riferimento, l'Historia Animalium è sempre, dà addirittura il nome a tutta una serie di trattati. Le scoperte geografiche costituiscono un punto specifico sul quale forse non ho insistito della mia sceneggiatura senza personaggi. E certamente il vecchio e il nuovo sono nel rapporto in cui sempre il vecchio è in rapporto sul nuovo, è in rapporto col nuovo. Uno che cerca di sopravvivere con una specie di inerzia e l'altro che cerca di eliminarlo. C'è uno scambio dialettico. Sappiamo benissimo che talune cose della tradizione anche medievale trapassano nella scienza moderna. Però non durano, immediatamente si fa la revisione. Per quello che riguarda poi la riproduzione, io intendevo dire che con la stampa arriviamo ad avere una riproduzione che dà tutta una serie di garanzie. Incidentalmente in questo malloppo di Physis c'è un mio lunghissimo articolo sulla questione che Sudhoff chiamava Fünf Bilder Serie, dove si dimostra che quello che gli storici della medicina hanno a lungo interpretato come un organo sessuale femminile, cioè un utero bicorne classico della vaccina, è in realtà un organo sessuale maschile disegnato male attraverso tutta una serie di passaggi e di inerzie iconografiche. Questo con la stampa non succede. Quindi direi, l'idea è questa, è chiaro. Ma ricordiamoci che l'interpretazione iconografica è un fatto essenziale per capire l'argomento scientifico. Non è possibile, non si fanno nemmeno oggi i trattati di anatomia con le fotografie, che sarebbero la resa più obiettiva, più precisa e più perfetta. Si fa il pezzo preparato e poi si interpreta, si colora, si interviene. Certamente non è la realtà, siamo ben lontani dal pensare che la raffigurazione della realtà sia la realtà. Però ricordiamoci ancora che, per esempio, questi già Aldrovandi, Olmi Docet, quando fa il basilisco, che ce l'ho lì riprodotto, non solo lo fa vedere dal davanti, ma lo fa vedere anche capovolto. E tutto questo è un'esigenza di documentazione che l'autore medievale non aveva. L'autore medievale disegnava la... come si chiama? Quella fatta in figura di donna, mi sono ben incoglionito. Sirena. No, la pianta. La mandragola la disegnavano con il pupazzetto e andava bene, con due foglie in testa. E questo qui, nella trattatistica del 500, nell'iconografia del 500, non c'è più. Cioè, tutto questo io intendevo dire. Certo, l'autore poi interpreta sempre, interpreta nelle composizioni, interpreta giustissimo l'osservazione della professoressa Tongiorgi nei colori, interpreta anche nelle forme. La mano conta, la tradizione iconografica, l'inerzia iconografica, sono dei fatti che non si possono eliminare dall'oggi al domani. E poi ricordiamoci che non tutti i fiori di tulipano sono precisi, eh? Ricordiamoci anche quello, che se noi pigliamo 50 tulipani, la tulipanità è la stessa, per tornare ai vecchi problemi della filosofia aristotelica, però i tulipani sono tutti differenti. Tutto questo è un qualche cosa di cui si comincia a prendere coscienza in questo periodo. Questo è il nuovo rispetto al vecchio che accettava criticamente tutta la tradizione. C'era un'aggiunta della... Una piccolissima aggiunta su questo problema. A mio parere... Chiara e lenta. Sì, sì, chiara, breve e lenta. Lenta nella velocità. Volevo dire che l'esempio del Fuchs forse non è indicativo per esemplificare questo problema, perché a mio parere... In questa fase occorre non andare a guardare all'iconografia stampa, che è ancora il culla del caso, ma occorre andare a vedere all'iconografia espressa dalle tempere o dal disegno, ma soprattutto dalla tempera o dall'acquarello. Perché è questo il momento. Evidentemente questo tipo di iconografia è antieconomica, e di un pianto di un animale se ne possono fare al massimo 10-20 copie, evidentemente poi la stampa si sostituirà e la stampa acquisterà progressivamente, già il Colonna lo dimostra ampiamente, tutta quella perfezione che è necessaria per la comprensione di un certo elemento scientifico. Es ist eine Ergänzung. Sie ergänzen ja. Mich. Ja. Es wurde zugestanden, dass, dass man natürlich diese Konzepte, diese Ordnungskonzepte im historischen Entwicklungsgang einordnen muss. Und dass diese Ordnung des 18. Jahrhunderts natürlich eine lange Entwicklung hinter sich hat, bevor sie sich in dieser Weise darstellt, wie Sie es geschildert haben. Der entscheidende Unterschied liegt wohl darin, dass man beginnt, die Ordnung nicht mehr allein nur zu verstehen, sondern sie auch zu strukturieren und zu hinterfragen. Bedürfnis des so Begreifens. Man begreift und man beschreibt nicht mehr nur und akzeptiert nicht mehr nur das, was die Basis des Aristotelismus hier an Aussagen bietet, sondern hinterfragt. In dem Augenblick, wo eben die philologische Kritik eine Methode zeigt, wie man den Text kritisiert, kann man auch beginnen, den Inhalt zu untersuchen. Das war, glaube ich, der wesentliche Punkt. Das andere können Sie vielleicht ja. Ergänzen, was dazu. Es gibt eine zweite Problem. Was geschehen ist, muss verstanden werden von innen, sagte Professor Macagni. Und Regelmäßigkeit. Schon im 16. Jahrhundert, obwohl Aristoteles noch anwesend ist, hat schon ein anderes Referenzfeld. Das heißt, Aristoteles wirkt als ein Palimpsest aus. In der Wirklichkeit gibt's eine neue Realität, und diese neue Realität hat mit sich eine neue Methode. Und die Methode ist die Idee einer vollständigen Regelmäßigkeit. Selbstverständlich, Neues und Altes wirken noch fort, aber die neue Richtung ist die Richtung nach einer vollständigen und modernen sozusagen Regelmäßigkeit. Was für die Probleme der Ikonologie, Professor Macagni wiederholte, dass die Regelmäßigkeit der Abbildungen eine neue Mentalität sozusagen impliziert. Sì, è proprio anche un aspetto, proprio la stampa garantisce una riproduzione sempre identica a se stessa che il passaggio manoscritto non garantiva. Ja, und die generelle Reproduktion ist eine Garantie der Richtigkeit. Dieser Punkt war auch nur dagegen gerichtet, dass das so ganz naturalistisch sei. Es ist tatsächlich was Neues gleichzeitig in diesen Bildern drin. Il nuovo che è nelle riproduzioni è anche un problema. È anche quello, certamente. È un problema dell'architettura della natura. Architettura, la costruzione. Struttura, è un nuovo sforzo o da una nuova bedeutung. Sozusagen das Ordnungsprinzip gibt. Aristoteles kennt keine Ordnung der Natur. Seine Klassifikation ist keine Systematik, sondern das ist mehr eine Diagnostik. Das wird sie aber jetzt in diesem ausgehenden 16. Jahrhundert aus dem Aristoteles heraus, aber neu fundiert. Ich habe also Cesarino genannt zum Beispiel. Das gibt das neue Ordnungsprinzip. Non è Aristotele che aveva definito un ordine. Non è Aristotele che ha definito un ordine, sono questi qui che cercano di inventarlo. Olmi.